We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024 2024 In questa puntata di 2024, dopo la liberalizzazione del Wi-Fi in ambito pubblico, come possono essere utilizzate queste reti e quali sono i progetti per diffonderle in Italia? E poi parleremo dei vari tipi di connessioni ad internet, ADSL, Hyperlan, WiMAX e telefonia mobile, 3 e 4G, e poi i progetti per ridurre il digital divide in Italia. Il problema è che per l'ultimo 5% di copertura della popolazione servono risorse che oggi non sono ancora disponibili. E anche quello che ci attende per le offerte di connettività. Come stanno affrontando gli operatori il problema dell'aumento di traffico? L'utente spende sempre la stessa cifra, ma sta consumando 3 volte più banda rispetto a 2 anni fa. Le congestioni sono sempre più frequenti. È il classico 20% di utenza che consuma l'80% delle risorse di banda. Infine la nostra rubrica in collaborazione con National Geographic, oggi parleremo di grandi navi da crociera. Calcolando anche l'equipaggio si arriva a 8.000 persone a bordo, quindi sono veramente dei mostri, dei giganti del mare. 2024 di Enrico Pagliarini. Le 15:33 minuti, bentornati o benvenuti a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, anche oggi siamo in diretta. Avete sentito un breve sommario degli argomenti di cui ci occuperemo oggi. Molte sono state le domande che ci avete fatto proprio sulla connettività ad internet, che è un elemento importante, fondamentale, visto che spesso parliamo di cose che si collegano a internet: tablet, telefonini, smartphone, computer, ma naturalmente serve appunto la connettività. Ci sono una miriade di problemi sia di carattere infrastrutturale che coinvolgono il paese, altri invece di carattere, potremmo dire, commerciale. Ma come sempre, questa è una breve anteprima dei nostri temi, iniziamo giocando con Stefano Gallarini. Video game. Video game. Pronti una nuova puntata dedicata al mondo dei videogiochi e l'inizio lo dedichiamo invece alla risposta del gioco che vi coinvolge ogni settimana e alle sue risposte. Eccole qui. Livello 1. È Vergata quella di una frazione di Roma? La risposta era Tor. Livello 2. Quando si pensa, lo si appoggia sul palmo della mano. In questo caso, la risposta era mento. Così, mettendo insieme le due parole, si ottiene tormento e il mostro di fine livello chiedeva... Mostro di fine livello. Il gruppo nel quale lavorava nel 2001. La risposta era sottotono, ovvero il gruppo che si presentò a Sanremo proprio in quell'anno, dove i componenti erano Fish e Tormento. Complimenti a Davide della provincia di Udine, che si porta a casa il sensore Kinect e 2 giochi, tutto rigorosamente firmato Microsoft. Ma è il momento di vedere il gioco di questa settimana e come sempre dovrete risolvere i 2 livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere quindi la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio anche questa settimana il sensore Kinect e 2 giochi Microsoft per Xbox 360. Livello 1. Era così il Saturno di Özpetek. E dopo l'introduzione siamo pronti a parlare del titolo di oggi: Lights, Camera, Action. Il parco a tema Disneyland Parigi, nella sua sezione dedicata al mondo del cinema, ha un'attrazione invidiata in tutto il mondo. Si chiama Cinemagique. Si tratta di uno spettacolo cinematografico che racconta la storia della settima arte sfruttando un escamotage di grande impatto. Un attore in carne e ossa entra magicamente nelle scene dei film famosi interagendo con gli attori protagonisti. E grazie quindi alla tecnologia Kinect per chi ha un Xbox 360 o alla telecamera PlayStation Eye per chi possiede la PlayStation 3, oggi quella magia la si può replicare anche a casa. Martin! vivo! È vivo! È vivo! U-Star 2, questo è il gioco di cui parliamo oggi, vi trasformerà nei protagonisti dei vostri film preferiti. Il concetto è semplice: si seleziona una delle 80 scene disponibili, tratte da altrettanti film, si sceglie quale fra gli attori che sono presenti nella scena si vuole interpretare e si dà il via al Chuck. La scena inizia a essere visualizzata sulla vostra TV e incredibilmente scoprirete che l'attore che avete scelto di interpretare sarete proprio voi. E come in un karaoke, la vostra battuta inizierà a illuminarsi rispettando i tempi del regista e alla fine di tutta la sequenza verrà riproposta la scena intera con la vostra interpretazione. Da Casablanca a Zoolander, da Frankenstein al Padrino sono moltissimi i film che vi vedranno protagonisti, ma prima di girare il primo Chuck, la seconda parte del nostro gioco che vi permette di portarvi a casa il sensore Kinect. Livello 2. Quello da baseball ha la forma di un diamante. Torniamo a parlare di U-Star 2 e prendiamo una scena interpretata da Ben Stiller tratta dal film Alla fine arriva Polly. Sai una cosa? In effetti, me no estas troppo bene, Javier. Devi girare alla larga da Polly, capito? Trovati un'altra compagna di ballo. Perché? Perché? Perché io e lei siamo una coppia, è chiaro? Sì, usciamo insieme. E non permetterò che un frescone re della salsa che si dimena con i suoi mambo porconi e lo sguardo di Benicio del Toro arrivi e cerchi di portarmela via, perché mi è già capitato e non mi ricapiterà. Ruben, sono gay. Senti, non mi frega, cosa sei come? Sono omosessuale. Il mio ragazzo, Hector, suona le tastiere nell'orchestra. Oh. Ehi, mi daresti delle lezioni di salsa? Si sceglie se interpretare il protagonista o il ballerino e si fa partire il filmato. L'attore che avete scelto sparirà lasciando posto alla vostra faccia, al vostro corpo e alla vostra voce, con un risultato che potrebbe essere questo. Devi girare alla larga da Polly, capito? Trovarti un'altra compagna di ballo. Perché? Perché? E perché lei siamo una coppia, è chiaro? Sì, usciamo insieme. Più seguirete i tempi e più darete intensità alla vostra recitazione, più punti otterrete. Ma potrà essere selezionata anche una modalità improvvisazione che vi permette di sostituire al vero dialogo le frasi che preferite. In U-Star 2 potrete anche salvare le scene più riuscite e condividerle via Facebook, Twitter o attraverso il portale creato apposta per l'occasione. E avrete la possibilità di sfidare anche gli amici. Insomma, un titolo per tutti e sicuramente un'ottima occasione per mettere alla prova le vostre doti attoriali. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa il sensore Kinect con Kinect Adventures e un altro gioco per Kinect offerti da Microsoft. Mostro di fine livello. L'arte dove lo si usa. E adesso la classifica. Quinto posto per un gioco in stile platform che ha per protagonista il gorilla Donkey Kong in esclusiva per Wii, Donkey Kong Country Returns. Scende al quarto posto un'altra esclusiva per Wii, il mix sportivo che ha l'idraulico Mario per protagonista, Mario Sport Mix. Al terzo posto si spara con un nuovo episodio di Bulletstorm, Bulletstorm Epic Edition. Primo e secondo posto in edizione normale e speciale per il nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona esclusivo per PlayStation 3 e da vedere anche a 3D, Killzone 3. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Noi abbiamo già risolto l'enigma. Vi ricordo il nostro numero verde, se volete chiamarci in diretta in questa puntata di 2024, 800 24 0024, oppure se volete inviarci un SMS, 349 238 6666. Saluto Simone Zanardi, ingegnere del laboratorio di PC professionale che si occupa prevalentemente, ma non solo, di connettività, di cose che si connettono a internet. Ciao Simone, bentornato. Ciao Enrico, un saluto agli ascoltatori. Dunque no, abbiamo forse sbagliato il microfono, che numero hai lì sotto? Due. Numero 2, Paolo Corleoni. Eccolo qua. Ciao Simone. Ci sono? Sì, ci sei. Allora, risaluto. Devo dire agli ascoltatori che effettivamente oggi il nostro studio è stato un po' rivoluzionato da varie cose, non ultimi tutti i collegamenti, gli aggiornamenti che abbiamo fatto e che faremo, che continueremo a fare anche sulla situazione del Giappone, insomma i gravi problemi che sta affrontando il Giappone. Allora oggi nello studio, insomma, c'è un po' di disordine, devo dire. Dunque Simone, noi oggi abbiamo pensato di dedicare una trasmissione a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto facendoci tante domande, devo dire, sui problemi che incontrano a connettersi ad internet. Anche perché, ma questo lo diciamo spesso, oramai collegarsi ad internet è diventata sia una necessità nostra, ma direi una necessità degli strumenti che utilizziamo. Cioè, ad esempio, gli smartphone, di cui parliamo spessissimo, hanno bisogno di collegarsi ad internet, non alla rete di telefonia, perché sappiamo che i cellulari sono sempre collegati alla rete di telefonia mobile, ma richiedono, che cosa chiedono ad esempio a internet? Beh, diciamo che, come giustamente dicevi, tutte le esigenze, no, del consumatore nascono un po' dalle applicazioni, no? E lo smartphone di ultima generazione, parliamo di iPhone derivati per intenderci, è un prodotto che nasce per essere continuamente connesso, perché nasce per applicazioni che per loro natura ricevono i contenuti in tempo reale da internet, e non solo li ricevono ma anche li inviano, quindi social network, il contenuto generato dall'utente. Pensiamo a Facebook, pensiamo a Twitter, pensiamo a YouTube per fare degli esempi. Quindi gli strumenti che oggi noi abbiamo a disposizione ci chiedono di essere connessi, e ci chiedono oltretutto di essere connessi in un modo che probabilmente fino a poco tempo fa era un po' impensabile. Quindi connettività bidirezionale, connettività in mobilità, connettività con una banda discreta, perché le applicazioni sono sempre più orientate all'audio e al video, quindi non ci accontentiamo più di velocità limitate, ma vogliamo delle velocità realmente a banda larga. E di conseguenza le richieste che noi facciamo ai nostri provider, comunque alla nostra connessione, sono sempre più importante. Sì, infatti parleremo tra l'altro di congestione delle reti, che è un argomento molto importante. Un primo punto che vorremmo affrontare è, giusto per dare uno sguardo più allargato alla faccenda, abbiamo detto internet è sempre più necessario, e sapete che uno dei dibattiti è come fare per almeno ridurre il cosiddetto digital divide, cioè quella parte della popolazione italiana che ancora non può accedere alla cosiddetta banda larga. Abbiamo chiesto di farci un aggiornamento, un update, a Cristoforo Morandini, che è vicepresidente di Between, che è una società di consulenza nel campo, nel settore, ma soprattutto è responsabile dell'osservatorio banda larga di Between. Oggi, a fine 2010, è circa il 10% la popolazione che non può disporre di un collegamento a una velocità dell'ordine di 2 megabit al secondo, che è un po' lo standard di riferimento. Abbiamo un obiettivo comunitario che prevede l'annullamento completo del digital divide entro il 2013. In Italia stiamo cercando di attrezzarci per questo obiettivo, ma come spesso accade ci mancano le risorse. Ecco, una prima fase quindi è quella della riduzione o comunque annullamento del digital divide. Che cosa si sta facendo? Ci sono soprattutto dei progetti regionali e in parte dei finanziamenti pubblici che stanno consentendo di portare dei collegamenti ad alta velocità verso le centrali, soprattutto di Telecom Italia, e che ci consentiranno di ridurre almeno in parte questo divario del 10%. Il problema è che per l'ultimo 5% di copertura della popolazione servono risorse che oggi non sono ancora disponibili. Un altro tema è quello della costruzione, ma qua stiamo guardando veramente al futuro, della costruzione del cosiddetto network di nuova generazione, quindi una rete in fibra ottica, per la maggioranza in fibra ottica, che raggiungerà le case degli italiani. A che punto è il progetto, o a che punto sono i progetti? Perché qua ancora non si capisce se c'è un progetto nazionale o tanti progetti regionali. Ad oggi ci sono molte buone intenzioni, però il tema di fondo è che questo è un passaggio a nord-ovest. Gli investimenti necessari per realizzare questa nuova rete sono circa 10 volte quello che invece serve per coprire il digital divide attuale, però la scommessa è quella di consentire agli italiani di disporre di prestazioni che sono circa da 10 a 100 volte quelle attuali in prospettiva. E gli investimenti necessari sono dell'ordine di 10 miliardi, che possono sembrare tanti, ma rispetto ad altri investimenti infrastrutturali in realtà sono assolutamente accessibili per un paese come l'Italia. Il progetto nazionale a che punto è? Il progetto nazionale in teoria è quasi pronto, era stato annunciato un business plan da completarsi entro qualche mese. Oggi ci sono dei problemi legati al fatto che su questo progetto si devono mettere d'accordo gli operatori quindi l'operatore storico Telecom Italia e gli operatori alternativi. Questo accordo ad oggi non è ancora stato raggiunto. E quando questo accordo verrà raggiunto, sicuramente dedicheremo una parte della trasmissione all'argomento, per capire che forma prenderà questo network di prossima generazione in fibra ottica per portare nelle case di buona parte degli italiani, ma questo è un altro dei problemi, perché si creerà un altro tipo di digital divide ancora peggiore rispetto a quello di oggi, perché alcuni avranno la fibra a 100 megabit, a 1 gigabit, e altri avranno ancora la vecchia DSL. Ne riparliamo tra poco, questo è 2024. 2024. Oggi è 2024, cerchiamo di rispondere alle domande, come ci si connette ad internet, cioè quali sono le varie modalità, e da qui poi partono tutta una serie di problemi e domande che ci avete già fatto via email nei giorni scorsi, ma che vi invitiamo a fare anche oggi al nostro numero verde. Chiamateci in diretta 800 24 00 24. Simone Zanardi, allora, abbiamo fatto un elenco. Citiamo spesso la DSL, che insomma è uno dei modi più classici per connettersi ad internet, ma ce ne sono altri, e alcuni direi un po' sconosciuti. Sì, certamente. Beh, la DSL, come dicevi, la fibra, quindi il cavo, sono gli strumenti classici. Poi c'è tutto il mondo delle connessioni wireless, quindi i cosiddetti wireless internet service provider, che utilizzano delle tecnologie di trasmissione senza fili per portare la connessione a casa nostra. Le tecnologie principali storiche è l'Hyperlan, che senza entrare in dettaglio tecnico è una sorta di Wi-Fi pensato per fornire connettività alle case. Poi c'è il WiMAX, che è una nuova tecnologia, nuova, è già da qualche anno che se ne parla, sta maturando pian piano. E poi ci sono le connessioni tramite satellite, che sono una tecnologia un po' più di nicchia, ma che può avere un buon responso sul digital divide. Questo per quanto riguarda le tecnologie di accesso senza filo, ma che portano verso la casa come elemento fisso. Poi ci sono tutte le tecnologie che ti permettono di connetterci in mobilità, cioè sfruttando le reti cellulari per navigare in mobilità dal telefonino o dal computer, quindi tutto quello che è il mondo 3G, 4G o 3,5G, come si dice, quindi la rete cellulare utilizzata però per la trasmissione dei dati e quindi per internet in mobilità. E oggi cercheremo anche di fare un po' il punto della situazione, cioè per dire qual è il pro dell'una e il contro dell'altra. A volte non si può scegliere, quindi uno si adatta alla tecnologia che ha a disposizione, ma a volte si può scegliere. Saluto Alessandro Longo, uno dei nostri collaboratori, esperto di materia legata a internet e alla rete, anche allo sviluppo della rete in Italia. Alessandro, bentornato. Grazie, saluto tutti voi. Senti, uno dei problemi che sono nati negli ultimi tempi, e anche qua mi aggancio a tutta una serie di domande che sono state fatte dai nostri ascoltatori, si parla spesso a proposito di sistemi per connettersi ad internet del Wi-Fi che possiamo avere a casa nostra per appunto collegarci dal salotto, dalla cucina, dal bagno, eccetera eccetera. Ma negli ultimi anni abbiamo visto un discreto sviluppo di reti Wi-Fi pubbliche, e sappiamo che dal 1° gennaio c'è stata una sorta di liberalizzazione di queste reti, quindi non vengono più domandati documenti. Una volta, per connettersi dalla rete Wi-Fi di un albergo, ad esempio, ci veniva richiesto, per motivi di legge, la carta d'identità, venivamo identificati. Allora, oggi come sono cambiate le cose? Possiamo parlare di una vera e propria liberalizzazione? In che termini, Alessandro? Sì, è una liberalizzazione provvisoria, perché sostanzialmente il governo ha deciso di far decadere degli obblighi che c'erano da tanti anni su chi forniva servizi Wi-Fi, e che anche obblighi che non avevano pari con il resto d'Europa. Quindi adesso c'è molta più libertà nel fornire servizi Wi-Fi, e una libertà provvisoria, ho detto prima, perché è in arrivo nuove regole di cui ancora non si sa niente, ma sono state promesse dal Ministero degli Interni, quindi saremo adesso a vedere quali saranno i nuovi obblighi in capo ai fornitori. Si spera che siano più leggeri di quelli passati. Devo dire agli ascoltatori che le domande su questo tema me le hanno cominciate a fare naturalmente dal 2 gennaio, ma io ho cercato di temporeggiare pensando che queste regole arrivassero. Siamo già quasi alla metà di marzo, nessuna regola è stata emanata, pubblicata, e quindi siamo in attesa. Ma che tipo di problema c'è, Alessandro? Cioè, che cosa bisogna cercare di risolvere? Bisogna mettere d'accordo due filosofie abbastanza opposte, cioè da una parte l'esigenza di non frenare la diffusione dei servizi Wi-Fi nei luoghi pubblici e dall'altra parte conservare un minimo di criteri di sicurezza per evitare che queste connessioni siano usate, diciamo, da malintenzionati. Quindi sono due obblighi opposti. Finora la bilancia è andata tutta dalla parte della sicurezza, con le vecchie regole intendo, adesso è stata fatta tabula rasa, quindi si cercherà un compromesso tra le due istanze. Quindi alla domanda, se io ho un esercizio pubblico, che sia un albergo, che sia un ristorante, che sia un parrucchiere, mi è arrivata anche una domanda del marito di una parrucchiera, giustamente, che dice: ma se io tengo aperta la rete wifi del mio esercizio commerciale, rischio qualche cosa? Perché tu hai citato i problemi di sicurezza, effettivamente arriva uno, un pazzo che fa cose strane su internet, la polizia va a pescare, diciamo, il proprietario dell'hotspot, quindi la parrucchiera in quel caso, giusto? Come si risolve questo problema? Beh sì, io conosco parrucchieri anche che offrono il wifi, si trovano molto bene, però i casi che conosco io sono di esercenti, di parrucchieri o di ristoranti eccetera, che si rivolgono ad aziende. Non è obbligatorio probabilmente fare questo, però è prudente ed è comodo, nel senso che vanno da aziende, cioè wireless service provider sostanzialmente specializzate, che vanno nel negozio, installano un routerino, lo collegano a dei propri sistemi che identificano gli utenti che si connettono. In questo modo qualunque cosa venga fatta da altri utenti in quella connessione di quell'esercente è tracciato, e quindi sostanzialmente il gestore non è responsabile e può provare la non responsabilità. Quindi mi sembra di capire che attualmente, in attesa, ma probabilmente anche in futuro, comunque in attesa delle regole, la soluzione migliore è rivolgersi a queste società che gestiscono questo hotspot pubblico, diciamo così. Beh, io credo che sia la cosa più prudente da fare, sì, al momento. Del resto non ci sono nemmeno dei costi pazzeschi, ecco. Molto spesso si tratta di pagare un canone di pochi euro al mese, più chiaramente il costo della connessione, e questo toglie tanti grattacapi, anche alcuni problemi tecnici che se no l'esercente dovrebbe sbrigarsi da solo. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta per le vostre domande su questo tema. So che le domande sono molte, i dubbi sono molti, anche su, più in generale, la connettività ad internet, problemi di banda, problemi di saturazione. Vi parleremo di una tendenza che sta coinvolgendo oramai quasi tutti gli operatori, che sono un po' preoccupati perché le reti ormai sono sature o comunque sono sovraccaricate. 800 24 0024, a tra poco. 2024. Seconda parte di 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 800 24 0024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Paolo Corleoni che si occupa della parte tecnica e creativa di questo programma. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024, scritto in cifra 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il nostro sistema podcast, e quindi al termine della trasmissione, poco dopo le 17, potrete scaricare il file MP3. Stiamo parlando delle varie modalità per connettersi alla rete internet. È con noi Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale. Allora, Simone, abbiamo accennato poco fa a tutte le modalità. Alcune ho detto, secondo me, sono sconosciute, comunque non così famose, però partiamo da quella più famosa, cioè la DSL. Certo, la DSL è, soprattutto in Italia e in Europa, il mezzo di connessione principale a banda larga. Ricordiamolo in due parole: è essenzialmente una tecnologia digitale che sfrutta il doppino telefonico, quindi il cavo del telefono in rame, per fornire connettività a banda larga dell'ordine dai 2 ai 20 megabit al secondo nominali. Il vantaggio principale della DSL e più in generale delle connessioni via cavo è quello delle prestazioni, perlomeno sul fronte nominale, quindi possiamo arrivare a connettività con velocità di punta dei 20 megabit al secondo e oltre. poi vedremo se queste velocità sono realmente rispettate. Un altro vantaggio del cavo, per sua stessa definizione, è la stabilità del segnale, l'affidabilità. Non è soggetto a interferenze radio e, al di là di qualche sporadico episodio, si presuppone che una connessione via cavo sia stabile e affidabile, quindi sia poco soggetta a guasti. E poi è l'unica tecnologia che di fatto fornisce delle modalità di tariffazione con una reale flat, vuol dire semplicemente che paghiamo un fisso mensile, abbiamo connettività illimitata, anche se su questo illimitato poi vedremo in seguito cosa vuol dire realmente. Contro del cavo, in realtà pochi, quando arriva il cavo è una bella cosa, il problema è dove non arriva. Diciamo, l'unico contro può essere identificato nel fatto che comunque richiede un contratto, spesso col provider telefonico, l'ex monopolista. Ricordiamo solo brevemente sulle cifre, che molto spesso quando i provider ci forniscono delle cifre per un conto mensile presuppongono che noi abbiamo comunque la linea telecom. E spesso, se noi vogliamo una DSL senza linea, le famose naked line, cioè le linee senza telefono, c'è una sovrapprezzo da pagare al mese. Comunque, diciamo, questo lo volevo chiedere ad Alessandro Longo, per avere un cavo in casa, quindi una DSL, Alessandro, quanto spendiamo grosso modo? Grosso modo i prezzi sono su intorno ai 20 euro al mese. Però bisogna aggiungere qualcosa. Beh, in realtà ultimamente sono arrivate offerte che intorno a questa cifra riescono a includere paghi solo questa cifra anche se non hai il cavo telefonico della linea voce. C'è stato ultimamente un boom di offerte solo a DSL, cioè un ritorno in auge della DSL nude, naked, come diceva appuntamente il mio collega, e quindi intorno ai 20 euro, qualche euro in più al massimo, è possibile avere sostanzialmente la banda larga senza preoccuparsi di altro. Queste sono però offerte, se guardiamo i prezzi di listino mi sembra di capire che meno di 30 euro facciamo fatica a spenderli al mese. Con 25 euro sono sicuro che è possibile avere la banda larga, certo non la linea telefonica, non il telefono, non le chiamate. Cioè le quindi la sola rete telefono, sì. Magari dopo, Alessandro, ti chiediamo anche qualche nome di operatore, perché tanto possiamo fare nomi senza problemi. Simone, dobbiamo aggiungere qualche cosa sul cavo? No, sul cavo essenzialmente l'abbiamo detto, il problema del cavo è dove arriva e dove non arriva. Certo, ecco. E questo l'abbiamo detto poco fa, ci sono piani per la riduzione del digital divide, anche se naturalmente insomma gli operatori non vogliono spendere molti soldi, lo Stato non ha molti soldi, alcune regioni stanno facendo qualche cosa, ma questo è un problema di cui appunto abbiamo parlato, poi se qualche ascoltatore vuole approfondiamo. Altre tecnologie, dobbiamo passare invece alle tecnologie senza filo. Esattamente, le tecnologie senza filo, che per loro ovvia natura sono contrapposte al cavo e nascono e si sviluppano soprattutto, ma non solo, contro il digital divide, cioè per coprire le aree dove il cavo non arriva. Partiamo subito da una tecnologia abbastanza verticale, abbastanza campo ridotto, ma che ultimamente sta dando buone soddisfazioni agli operatori, che è il satellite. Essenzialmente questi nuovi operatori che sfruttano le connessioni satellitari installano a casa dell'utente una parabola, non come quelle televisive, ma una parabola in grado di trasmettere e ricevere, quindi per una trasmissione bidirezionale. E ovviamente tramite il satellite noi riusciamo a collegarci a internet a buone velocità senza la necessità di alcuna infrastruttura a terra, se non la nostra parabola. Quindi il vantaggio è che è veramente una tecnologia indipendente dalle strutture a terra, quindi raggiunge tutte le case, anche quelle nei posti più difficili da raggiungere col cavo. Il contro è che generalmente le offerte hanno dei buoni prezzi al mese, però quasi sempre c'è un tetto di traffico mensile, perché la banda sul satellite è di per sé una risorsa molto cara e quindi c'è un tetto mensile. Certo, e comunque questa insomma è una tecnologia proprio per chi non ha proprio alternative. Esattamente. E poi c'è tutto il mondo dei wireless internet provider che sfruttano tecnologie, chiamiamole così, metropolitane o locali per la connessione wireless. Tipicamente si parla di Hyperlan e adesso di WiMAX, cioè quelle tecnologie con cui gli operatori utilizzano dei ponti radio per la loro struttura e poi forniscono in maniera circostanziata a noi un segnale wireless simile a quello del wifi che giunge a casa nostra e tramite un apposito ricevitore ci dà connettività in casa senza fili. A tal proposito, io un paio di giorni fa ho sentito Luca Spada, che è amministratore delegato di NGI o NGI, che è un operatore che ci offre anche la DSL, ma è il primo operatore in Italia per l'offerta in tecnologia Hyperlan / WiMAX, e io dicevo questa è una tecnologia che secondo me è ancora un po' sconosciuta, ma sentirete poi tra poco dalla sua voce quanto oramai è estesa questa rete. Allora, stiamo parlando di un tipo di connessione che è simile a quella di una DSL, ma erogata tramite wireless. Noi andiamo a installare un'antenna sul tetto dei nostri clienti che è puntata in maniera fissa verso un nostro ripetitore. Da questa antenna scende un cavo di rete al quale si collega un normale router wireless per distribuire i segnali internet nelle case. E come tipo di prestazioni forniamo delle garanzie di banda e delle performance di picco che sono molto simili alla DSL e alle DSL che funzionano bene, perché la nostra rete è nata per superare le barriere del digital divide. Tuttavia esiste in Italia anche una parte veramente significativa di ADSL che funzionano male, che non solo non raggiungono i famigerati 7 mega o 20 mega, ma non vanno neanche a 1 o 2, perché sono attestate su centrali sature e Telecom ne ha sempre di più. È anche vero che l'upgrada, ma passano mesi da quando entra in saturazione e viene upgradata, e poi per problemi di cattiva qualità sui cavi di rame. E quindi la nostra soluzione consente sia di avere la larga banda laddove non la può avere sul fisso, ma anche e soprattutto di avere una qualità maggiore nel caso di DSL con questo problema di qualità. NGI ha attualmente la rete in tecnologia Hyperlan, questa tecnologia di cui stiamo parlando, più estesa d'Italia. Ha una rete che effettivamente, guardando la mappa, sembra quasi incredibile. Ci dai un'idea di quanto è estesa questa rete? Sì, la nostra rete copre 3200 comuni nel nord Italia, sostanzialmente tutte le regioni del nord. In maniera molto dettagliata oramai le zone che tipicamente sono quelle di digital divide, ossia le valli sia principali che periferiche, e anche nelle zone pianeggianti della pianura padana, le cosiddette case sparse piuttosto che paesini veramente piccoli dove la DSL non c'è o funziona molto male. Oltretutto la nostra rete è nata Hyperlan, ma nell'ultimo anno si è sviluppata anche sul WiMAX, su frequenze non licenziate, che ci consente di migliorare ancora di più la qualità dei collegamenti e soprattutto riuscire a dare anche la voce su IP e quindi un servizio sostitutivo di quello telefonico. Questo è 2024, adesso ci fermiamo, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, il nostro numero verde è 824 0024. Tra poco sentiremo i primi ascoltatori. Numbers, numbers. 2024 Numbers. Qual è la percentuale di famiglie italiane che utilizza un collegamento internet veloce? Numbers. Numbers. 2024. 16 e 16 minuti, vi abbiamo domandato nella nostra rubrica Numbers qual è la percentuale di famiglie italiane che utilizza un collegamento ad internet cosiddetto veloce. Secondo i dati di Audi Web Trends, la ADSL viene utilizzata nel 65,7% dei casi, sono poco più di 8 milioni le famiglie italiane che hanno una ADSL. Poi bisogna vedere quanto questa ADSL viene utilizzata, se si tratta di ADSL a consumo, ma qui faremo un'altra puntata sull'analisi delle connessioni. Sentiamo Pietro che ci chiama dalla provincia di Varese, buongiorno Pietro. Buongiorno, senta, io le parlo della connessione in mobilità che io utilizzo per ragioni professionali e che ha una qualità veramente scarsa. Io ho avuto diversi provider, sono passato attraverso la TIM, sono passato attraverso la 3, adesso sono Vodafone, però la quantità di dati che si riesce a ricevere, anche quando la connessione è buona, è veramente limitata e non consente l'uso per cui io ne avrei bisogno, cioè per ragioni professionali. Tenga presente che io non scarico file multimediali, non scarico filmati, non scarico file audio, apro pagine, faccia conto di siti come quello del Sole 24 Ore per vedere le notizie in tempo reale. Però sono veramente insoddisfatto di come sta funzionando questa connessione. Non riesco a capire se dipende dall'eccesso di utenti o dal fatto che i provider selezionano gli utenti a cui dare più o meno banda. Direi di no questa seconda. Pietro, grazie del contributo, perché questo è uno dei nodi. Simone, siamo arrivati appunto alle tecnologie basate sulla infrastruttura di telefonia mobile. Quindi parliamo oggi di 3 e di 3,5G in attesa del 4G, ma di quello parleremo forse fra qualche anno in Italia. Beh, quello che diceva l'ascoltatore risponde in realtà, perlomeno in parte. Diciamo che siamo arrivati appunto alla terza grande famiglia di strumenti di connettività. Abbiamo detto cavo, wireless inteso come wireless che però porta comunque una connessione fissa, e connessioni mobili. Quindi essenzialmente stiamo parlando della rete cellulare utilizzata per fornire accesso a dati. Allora, il problema di cui parlava Pietro, certo, perché innanzitutto c'è un problema di marketing, cioè le cifre che sentiamo nelle campagne pubblicitarie sono comunque esagerate. Quando parliamo di 14 mega o 28 mega addirittura per una connessione su rete cellulare, sono cifre che corrispondono ai limiti nominali della tecnologia, ma ben difficilmente sono le velocità reali, per una serie di problemi che non sono neanche pochi. Diciamo che i principali possono essere individuati innanzitutto in un'esplosione di questo tipo di connessioni che c'è stata negli ultimi anni. Non voglio fare nomi, ma di fatto l'avvento di iPhone e dei suoi derivati, quindi degli smartphone, ha moltiplicato esponenzialmente il numero di persone, anche consumer, che si collegano quotidianamente a internet sfruttando la rete cellulare. Qui anticipiamo un argomento che poi verrà, quello della saturazione delle reti. Nel momento in cui tanta gente si connette a una cella che comunque ha delle prestazioni limitate sia per la gestione del canale radio sia per il backbone, cioè per il filo che la collega alla rete principale, nel momento in cui tutte queste persone si collegano contemporaneamente le prestazioni degradano. C'è poi un problema prettamente radio, cioè la stabilità, le interferenze, il problema di muoversi, cioè un terminale che si muove comunque fa intervenire una serie di meccanismi per mantenere la connessione che inevitabilmente ne riducono la velocità. Quindi è comunque una tecnologia matura da un certo punto di vista, ma che sta affrontando un periodo di esplosione del mercato che non sempre riesce a tenere sotto controllo. Alessandro Longo, volevo sentire anche te su questo tema, soprattutto per capire come gli operatori stanno tentando, anche se non è una cosa facile, di reagire a questa situazione, perché effettivamente stanno aumentando le richieste di i clienti che utilizzano molta banda. Ad esempio gli operatori stanno cercando di limitare alcuni servizi. Cosa sta succedendo, Alessandro? Gli operatori chiaramente si trovano abbastanza tra l'incudine e il martello, no? Da una parte c'è un boom del traffico, che è una cosa buona chiaramente dal loro punto di vista, però dall'altra parte le risorse sembrano sempre inferiori a quelle che dovrebbero essere per dare a tutti una buona qualità del servizio. Ora, da una parte gli operatori stanno investendo sui collegamenti di queste delle antenne a internet, quello che i tecnici chiamano backhauling, cioè il collegamento, no, tra l'antenna e il resto della rete, però questo non basta, e allora tutti gli operatori, ma proprio tutti, hanno attivato delle tecniche di, anche qui userò un termine tecnico, poi lo spiego, traffic shaping, sostanzialmente, che fanno? Modulano il traffico in modo tale da impedire la congestione della rete e in particolare penalizzano chi o le applicazioni che consumano molta banda, tipo tipicamente il peer-to-peer, oppure penalizzano gli utenti che scaricano più di una certa quantità, sostanzialmente riducono la velocità degli utenti e o di certe applicazioni. In questa maniera, in modo un po' rudimentale, ovvero per creare capacità, in questo modo cercano di ridurre il problema. Sentiamo ancora Luca Spada proprio su questo punto, perché quello che sta succedendo nella rete mobile sta, ahimè, accadendo anche sulla rete fissa, anche se Luca Spada parla da operatore wireless, ma è molto più vicina alla sua tecnologia e alla sua offerta, alla DSL, rispetto a quella degli operatori mobili. Sostanzialmente stiamo vedendo che negli ultimi anni è in corso un cambio delle abitudini di utilizzo di internet. Quindi un utente che 2 anni fa faceva un utilizzo prevalentemente di navigazione, posta elettronica o anche peer-to-peer della rete, Oggi a questi protocolli, a questi servizi è aggiunto anche il video, che per sua natura ha un consumo di banda mentre si fa streaming abbastanza notevole. Il punto qual è? Che tutti gli operatori, per gestire la rete in casi di saturazione di banda, solitamente prima si tendeva a fare shaping sul traffico peer-to-peer. Cosa vuol dire? Dato che il traffico peer-to-peer è quello che, se anche lo rallenti, non è che crei un problema diretto all'utente, veniva rallentato in modo da lasciare più spazio alla navigazione o altri protocolli più sensibili. Oggi però, con l'aumento radicale del video, il video non è per sé comprimibile, perché se io lo rallento si inizia a vedere i filmati a scatti e chiaramente l'utente si arrabbia. Il problema qual è che stanno vedendo gli operatori? È che l'utente spende sempre la stessa cifra, ma sta consumando 3 volte più banda rispetto a 2 anni fa, perché sono cambiate le sue abitudini. E quindi gli operatori stanno andando incontro a una situazione in cui le congestioni sono sempre più frequenti, ma non hanno le risorse economiche per upgradare la rete, perché i soldi che pagano gli utenti sono sempre le stesse. Quindi che cosa si fa? Quindi quello che noi stiamo, lanceremo una nuova tipologia di offerta che crediamo verrà abbastanza copiata anche da altri operatori sul mercato e che a nostra volta abbiamo ereditato dagli operatori mobili, che è quella sostanzialmente di garantire un quantitativo di traffico giornaliero dove ti faccio andare sempre alla velocità massima o comunque su una corsia preferenziale. Superato a questo quantitativo giornaliero, la velocità della connessione viene forzatamente limitata. Noi ad esempio lanceremo adesso un'offerta che si chiamerà Elo10, che darà 10 megabit di banda in downlink, 1 megabit in uplink, con 1 giga al giorno di traffico illimitato. Oltre il giga si viene limitato a una velocità di 0,5 megabit fino alla mezzanotte, perché poi dal giorno successivo riparte il giga. Tengo a sottolineare che mediamente un utente sulla rete consuma circa 500 mega di traffico al giorno, già un utente abbastanza avanzato. Quindi si capisce che 1 giga al giorno è un limite molto alto. A noi serve solo per limitare quell'utenza che scarica quantità veramente notevolissime di traffico ogni giorno e che è il classico 20% di utenza che consuma l'80% delle risorse di banda. E noi vogliamo andare a limitare questa tipologia di utenza. Tu pensi che il mercato in generale, quindi metto all'interno del mercato anche i collegamenti ADSL classici, si sposterà sempre di più verso offerte di questo tipo, cioè gli operatori cercheranno di, in vari modi, di rallentare, cioè di scoraggiare quelli che fanno molto traffico? Credo proprio di sì, perché purtroppo chi oggi rovina, fammi dire, chi manda in saturazione le reti è sempre una piccola percentuale degli utenti che fanno un utilizzo smodato della rete e che con le logiche oggi di tutto flat senza limiti vanno a compromettere l'80% degli altri utenti. Questo è 2024 e quello che avete sentito è quello che ci aspetta, forse anche sempre più anche sulle reti fisse, quindi magari vedremo sempre più offerte ADSL con un tetto massimo oltre il quale o ci viene rallentata la connessione oppure dobbiamo pagare un po' di più. Tra poco sentiremo Luciano da Udine, che da un po' di tempo sta aspettando in linea, Fulvio da Brescia, Matteo da Torino. Questo è 2024, riprendiamo tra poco. Numbers 2024. Numbers. Quale tipo di abbonamento viene maggiormente sottoscritto dalle famiglie italiane per navigare su internet? Numbers. 2024. Vi abbiamo domandato nella nostra rubrica Numbers quale tipo di abbonamento le famiglie italiane scelgono maggiormente. Beh, il 93% sceglie l'abbonamento flat. Vabbè, forse era scontata la risposta, però è un dato che vi diamo. 93,1%, che corrispondono a circa 7,6 milioni di famiglie, hanno un abbonamento alla DSL flat. Luciano da Udine, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto nel progetto, se è possibile togliere il viva voce o l'auricolare, qualsiasi cosa, perché la sentiamo un po' male. Ok, un attimo. Eccolo qua. Viva voce. Mi sente meglio? Sì, sì, prego, prego. Innanzitutto buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Non avete accennato a un progetto che si chiama Mille Comuni, che è di Vodafone, che riguarda appunto le connessioni tutto wireless su rete cellulare, che prevede ADSL, Voice over IP per quanto riguarda la telefonia fissa. Un comune al giorno viene attivato. Lei ci vuole dire di questo progetto? No, le volevo solo accennare, ma credo che le informazioni siano state divulgate, sono abbastanza reperibili in rete, non serve certamente il mio expertising per illustrare il progetto. Uno, secondo, è vero che gli operatori di rete mobile sulle chiavette tagliano tranquillamente la banda, attualmente non è che saranno seguite, ma esiste già da tempo, almeno da parte di Vodafone, progetti di chiavette che prevedono una quantità di dati e poi si scende a una velocità di connessione di 64 kilobyte, quindi 2 mega, 5 mega e 10 mega mese, oltre i quali si scende e si scade di prestazioni. Sì, sì, certo. Non è che mi state raccontando delle grandissime novità. Beh, guardi, Luciano, diciamo, facciamo una trasmissione per un pubblico vasto. Se lei è un esperto del settore, come pare sia, può scegliere di ascoltare un disco o qualcos'altro. Noi comunque la ringraziamo per aver chiamato. Naturalmente non possiamo scegliere di citare tutti i progetti per la riduzione del digital divide, sennò faremo una lista lunga. Non c'è solo Vodafone che sta operando in questi termini. Fulvio da Brescia, buongiorno, grazie di averci chiamato. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti. Poc'anzi si è parlato della normativa che regola gli accessi alle reti Wi-Fi, che è venuta a cadere poi all'inizio di quest'anno. Non c'è più l'obbligo per i gestori di registrare gli utenti, però di fatto molti ancora lo fanno e per un normativo è ancora molto incerto. Chi sostiene le restrizioni più o meno elevate lo fa pensando soprattutto al contrasto del crimine in generale e al terrorismo in particolare, perché questa è la ratio che a suo tempo ha animato il famoso decreto Pisano. A proposito di questo, guardare quello che fanno gli altri ci può far aprire gli occhi. Io durante il viaggio a New York sono rimasto colpito dal fatto che ci sia una completa libertà di accesso alle reti wireless in città. Per esempio, nei giardinetti davanti al municipio, proprio a due passi da Ground Zero, è possibile navigare seduti su una panchina, sì, sì, senza alcun tipo di autenticazione o registrazione. E allora i casi sono due: o gli americani sono altamente imprudenti oppure dispongono di metodi di monitoraggio più discreti e meno invasivi. E mi viene anche da pensare, più o meno maliziosamente, che la volontà ultima del nostro legislatore non sia tanto quella di contrastare i malintenzionati quanto di controllare ciò che fanno gli utenti della rete. Questo mi sembra una limitazione della libertà personale. Sì, questo non lo penso che sia più una questione di principio che altro. Converrai con me, Fulvio, che c'è anche un problema di cultura digitale del paese. Questa cosa che tu hai descritto accade negli Stati Uniti, dove non solo i politici ma tutto il sistema paese più facilmente apre una rete wifi in pubblico. Io insomma sfido a trovare un albergatore che molto volentieri, cioè sfido, insomma, ci sono, però la stragrande maggioranza insomma forse non è proprio, non pensa che sia una delle priorità, no Fulvio? Sì, beh certo, però ecco, mi sembra che si debba lavorare molto, come dice lei, anche dal punto di vista della cultura, esatto, nel senso di apertura mentale, perché se è possibile in un paese colpito direttamente dal terrorismo e tuttora sotto tiro garantire una chiarissimo. Indicazione, non vedo perché non si possa fare a maggior ragione anche in Italia. Sì, comunque sì, adesso questa legge non c'è più, quindi insomma un passo avanti è stato fatto. Matteo da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità appunto di trattare di questi temi, perché è proprio di cultura di quello di cui bisogna parlare, cultura digitale. Il digital divide non si combatte con l'innovazione tecnologica, ma si combatte in qualche maniera spiegando a tutti che cosa vogliono dire certi termini e portarli diciamo alle orecchie e a parole diciamo più semplici. Giusto. Quindi due temi semplicissimi. Il primo, quello che appunto da una parte mi fa sorridere, il contrasto che c'è tra gli operatori telefonici che promuovono promuovono la libertà di scaricare film, video, quant'altro sui propri dispositivi mobili, quando in realtà sono alle strette con la banda che possono mettere a disposizione. Ecco che questo è un contrasto, sebbene per ragioni commerciali proficuo per questi operatori, ci sarebbe da chiedere quanto questo contribuisca a quel digital divide di cui parlavamo prima. Quindi anche queste offerte a fondo comunque ingannevole, che non fanno nemmeno rendere conto che probabilmente la banda, che è realmente il metro di misura, no, della ricchezza della navigazione, equivale un po' come l'energia, e quindi è il fabbisogno di banda che dovrebbe essere in qualche modo chiarito e in qualche modo protetto. E proprio per la ragione di prima, invece, su questione di sicurezza parlerei, per comprendere in parole più semplici, un discorso di responsabilità. Un po' si diceva al tempo di raccogliere documenti, ad esempio, in un hotspot pubblico, per il semplice fatto che se un narcotrafficante avesse fatto le sue faccende o malintenzionato via internet, io avrei aiutato in qualche maniera questa attività fornendo lui della banda. È un discorso molto stupido, equivale un po' a dire che lo Stato, siccome costruisce le strade, permette ai criminali di poter andare in giro liberamente. Quindi sicuramente è molto utile parlare di queste cose in una scala di misura, in maniera che tutti ne possiamo comprendere, perché il primo passo per combattere il digital divide rappresenta proprio dalla cultura, ed è la prima che si vuole demolire e controllare appunto in questo paese. Matteo, ti ringrazio molto, non ho nulla da aggiungere, perché insomma mi sembra molto chiaro e condivisibile da molti. Ci ha raggiunto Stefano Quintarelli. Ciao Stefano, benvenuto. Grazie Enrico. Dunque, e benvenuti a tutti. Devo dire che, per chi non lo conosce, Stefano Quintarelli è sicuramente uno dei più autorevoli esperti di dei temi che stiamo parlando, insomma di tecnologia, di telecomunicazioni in generale, non solo in Italia, metterei almeno l'Europa, poi se non voglio andare troppo in là. Che cosa ci vuoi dire, Stefano? Grazie di aver chiamato, insomma. No, beh, per carità. Volevo far cogliere un dettaglio. Prima parlava Luca Spada e diceva di questo limite, diceva la media dei suoi utenti scarica, fa traffico per 500 megabyte al giorno. Ecco, che è circa la media, poco meno della media mensile di un utente con uno smartphone o con un tablet. L'uso delle reti cellulari e diciamo fisse, sebbene fisso sia fatto in modo wireless o concavo, è radicalmente diverso. Nel tempo noi siamo passati dai collegamenti fatti via modem o via ISDN, in cui l'utente si autolimitava, perché c'era una parte a scatti, che era il consumo telefonico di base, e questo aiutava favoriva il fatto che l'utente si autolimitasse. Il periodo della DSL, e notiamo che la DSL è nata nel 2001, quindi stiamo parlando di una roba che ha solo 10 anni di vita, ha portato un modello d'uso per alcuni che è veramente eccessivo e che impatta significativamente sulle risorse, e questo naturalmente, cioè se io devo fare, alla fine la coperta è sempre corta, devo decidere da che parte andare a investire i quattrini, se potenziare le reti là dove ci sono già oppure portarle dove non ci sono. Quindi questi sono i due temi. Mi piaceva cogliere questo fatto appunto, di questa radicale differenza che c'è tra l'uso della rete fissa e l'uso della rete wireless. Poi volevo fare un commento sull'ultimo ascoltatore e il tema della cultura digitale. Sì. Allora, fammi fare un discorso un po' filosofico. L'Italia è il paese più vecchio del mondo. È il paese, perché facciamo la gara col Giappone. Facciamo la gara col Giappone. Sì, ma stiamo vincendo noi comunque. Facciamo la gara col Giappone, ma vinciamo noi. E non è che non abbiamo neanche risorse naturali. Quindi l'unico modo che abbiamo per guardare con ottimismo al futuro è quello di fare le cose che facciamo in modo più efficiente. L'unico modo per fare le cose in modo più efficiente è quello di favorire lo scambio di informazioni. Faccio un esempio: è vero che noi abbiamo un'economia largamente manufatturiera, integrare i magazzini e i sistemi di ordine delle piccole e medie aziende, che è il nostro tessuto, consentirebbe di ridurre l'immobilizzazione in termini di inventari e quindi di liberare dei capitali, per esempio, per favorire la crescita. L'uso del commercio elettronico che noi facciamo, sia in Italia ma verso l'estero, è modestissimo, assai inferiore rispetto a quelli della media dei paesi dell'Europa 27. Per essere precisi, siamo al quart'ultimo posto nell'Europa 27. Ecco, noi dobbiamo dare un colpo di reni per cercare di usare le tecnologie digitali per far guadagnare competitività al sistema, perché questa è la cosa che ci può dare uno spazio di crescita futura. Questo, il tema della crescita sostenibile sfruttando le tecnologie dell'informazione, è il progetto di iniziativa strategica della Commissione europea che si chiama Agenda Digitale, che insieme ad alcuni amici abbiamo voluto cercare di rilanciare anche qua in Italia, e quindi invito gli ascoltatori ad andare a visitare il sito www.agendadigitale.org. E tra l'altro il 21 faremo un convegno, questo lo annunceremo brevissimo sul sito, il 21 faremo un convegno a Milano sul tema dell'agenda digitale, ovvero proposte e iniziative per cercare di diffondere la cultura digitale in Italia, perché quella è la cosa che ci può dare maggior slancio e la maggior crescita competitiva, che è una cosa che serve a tutta l'economia. Stefano, grazie. Se vuoi rimanere con noi, vorrei farti sentire tra poco, a proposito di cultura digitale, di quanto tutto quello che tu hai detto può favorire la competitività, una persona che ha fondato una startup, dopo però aver sentito Simone Zanardi che voleva aggiungere qualche cosa su quello che forse gli ascoltatori hanno detto. Sì, su quanto detto dall'ultimo ascoltatore e in parte quanto già ribadito anche da Stefano e anche su quello che diceva Luca Spada in precedenza. Capisco che Luca Spada faccia un discorso dal punto di vista del provider, quindi quando sostiene che il 20% degli utenti consumano l'80% della banda, è un discorso che ci può stare e che i provider tentano di in qualche modo di rendere la rete un pochettino più funzionale per tutti. Ricordiamoci anche che però dal punto di vista degli utenti sono gli stessi provider ed è lo stesso mondo internet che ci spinge a utilizzare tanta banda. Quello che diceva prima un ascoltatore. Esatto, quindi sinceramente se oggi la media di navigazione è 500 mega al giorno può starci, certamente non è destinata a scendere questa media. Ecco. Dunque saluto Gianluca Verin, buongiorno Gianluca. Buongiorno. Tu hai fondato una società che si chiama Atonet e cerchi con una soluzione molto intelligente, va di moda il termine smart in questo periodo, di ridurre la congestione. Tu mi hai scritto dopo che abbiamo fatto una trasmissione con un collegamento dal Consumer Electronics Show di Las Vegas, dove il nostro inviato, insomma, chi parlava da là, diceva: qua i cellulari fanno fatica a funzionare, non si trova una rete wifi, c'è una congestione pazzesca. Sostanzialmente voi che cosa state facendo, state sviluppando? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Noi abbiamo sviluppato un sistema che chiamiamo Primo, che sta per Private Mobile. Utilizziamo l'infrastruttura di rete mobile cellulare, quella che normalmente utilizziamo nei telefonini, e la utilizziamo in un modo un po' diverso. Noi praticamente creiamo una rete compatta, flat e chiusa, che utilizza il protocollo IP, ma non soltanto utilizza il protocollo internet, come diciamo stanno pian pianino migrando, diciamo, tutte le reti mobili attuali, ma ne adotta anche la filosofia, cioè fa in modo che di trasformare le reti cellulari che ora sono, diciamo, sovraccariche. Sovraccariche, sì, e congestionate, le prende e le fa diventare distribuite. Ora la rete dell'operatore mobile è gerarchica e proprio per il fatto di essere gerarchica crea parecchi colli di bottiglia. Quello che noi riusciamo a fare è praticamente fare un total offload, quello che si dice un total offload del traffico, utilizzando, diciamo, la rete, utilizziamo internet. Fondamentalmente, se ho capito, voi mettete un'antenna in un luogo molto frequentato, quindi ad esempio, che ne so, uno stadio. Quell'antenna, per me che ho un telefono cellulare, sembra un'antenna di un operatore mobile tradizionale. Io mi collego a internet senza accorgermi di nulla. In realtà da lì il traffico va direttamente in internet invece di andare nella rete dell'operatore, giusto? Esattamente. Bypassate tutto. Senti, uno potrebbe domandare: ma è possibile che questa idea banale l'abbiate avuta voi in Italia, a Trieste? Nessuno nel mondo? Ma una prima risposta è che noi veniamo dal mondo, nel senso che siamo... No, è una domanda che faccio sempre agli italiani che inventano qualche cosa. No, nel senso che noi siamo stati all'estero e siamo tornati, quindi insomma, lavoravamo all'estero, quindi siamo tornati perché volevamo portare anche un po' di buon lavoro qui in Italia. E la risposta anche è che effettivamente gli operatori mobili hanno altri problemi, e i problemi sono di connettere centinaia di migliaia e milioni di persone allo stesso tempo, e quindi devono dimensionare la rete per quel tipo di... Chiarissimo, chiarissimo. Dunque Gianluca, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, potremmo naturalmente parlare di questo per molto tempo, saluto i nostri ospiti perché dobbiamo chiudere questa trasmissione, perché tra poco c'è questa rubrica in collaborazione con National Geographic. Simone, dobbiamo aspettarci delle connessioni ad internet con il tetto massimo anche sul... siamo sulla rete fissa, quindi delle ADSL bloccate. Presumibilmente sì, anche Telecom ha fatto degli annunci, adesso è un po' lungo parlarne, comunque diciamo che è la cosa più probabile. Che Telecom adesso fa un po' di controllo gestione sulle del applicazioni, traffico. Ha già detto che non farà niente sul VoIP, però probabilmente sul peer-to-peer, inteso come download di grossi file, limiterà nei momenti in cui rileva del traffico di picco sulle applicazioni, non sugli utenti, quindi non sarà una cosa legata all'utente ma all'applicazione. Quando un'applicazione, per esempio il peer-to-peer, satura la banda, ci sarà una sorta di taglio. In attesa delle reti, il cosiddetto ultra banda larga, quindi della Next Generation Network, purtroppo questo è quello che ci dobbiamo aspettare per i prossimi mesi, anche qualche anno probabilmente. Ringrazio Simone Zanardi del laboratorio di PC Professionale per essere stato con noi in studio, anche Alessandro Longo che è stato collegato con noi durante questa trasmissione. Sono le 16:46 minuti, una breve pausa, ci risentiamo tra poco. 2024. Adesso è arrivato il momento del nostro appuntamento con National Geographic Channel, canale 403 della piattaforma Sky. Questa settimana partiamo da un documentario intitolato Navi da Record, della serie Megastrutture, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:10. Potrebbe sembrare solo un'altra nave da crociera, ma in realtà non ha nulla di ordinario. È una nave da crociera da record. Per la nave da crociera più grande al mondo viene utilizzato soltanto l'acciaio migliore. Qualunque difetto nell'acciaio o nella costruzione metterebbe a rischio migliaia di passeggeri. Negli oltre 2.400 chilometri di giunti saldati che sostengono la struttura della nave, non è consentito neanche il minimo errore. Richard Fain, direttore della Royal Caribbean Cruises, guida le operazioni. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di costruire la nave più grande del mondo. Abbiamo studiato tutta una serie di alternative, ma poi abbiamo sviluppato delle idee che erano realizzabili solo su una nave così grande. L'Oasi dei Mari possiede senza dubbio uno dei punti di comando più sofisticati al mondo. Non c'è nave che possa competere. Il capitano, Bill Wright, comanderà da uno dei ponti più grandi mai costruiti. Nonostante le dimensioni, manovreremo con questo piccolo joystick. Sembra strano, ma sarà davvero così. Per comandare la nave più grande del mondo, il capitano e gli ufficiali sono sottoposti a dei test. Ci si deve abituare a molte cose. Si deve essere in grado di navigare e manovrare la nave con sicurezza e facilità. È una salita piuttosto ripida. Di tanto in tanto tutti gli architetti si riuniscono per presentare le proprie idee. Kevin Johnson e Kate Lockey arrivano da Londra al quartier generale di Miami. Lavoriamo su aspetti molteplici con moltissima gente diversa e tutti quanti hanno interessi concorrenti. Per questo è un processo intenso. Alla fine il progetto somiglia a quello di una città sul mare. Potrà ospitare 6.300 passeggeri e un equipaggio di 2.200 uomini. Fino a quando non prenderà il nome definitivo, quest'opera straordinaria sarà chiamata con il nome in codice, Genesi. STX a Turku, in Finlandia, impiegherà 8.000 anni uomo per completare la nave e oltre 3.200 persone saranno coinvolte in vari momenti del processo. La costruzione consiste nell'assemblaggio di grandi blocchi. In totale ne verranno realizzati 181. Alti 4 piani, questi blocchi costituiranno gli 8 ponti con le cabine. A poppa, i blocchi andranno a costituire dei settori straordinari come il boardwalk e l'acqua theater all'aperto. Abbiamo parlato di grandi navi da crociera con Maurizio Cergol, che è responsabile ingegneria di offerte e nuovi prodotti della direzione navi mercantili di Fincantieri. Parlando per esempio appunto di navi da crociera, il parametro che si usa è la stazza. che viene espresso nel latte, che può dare un po' confusione, perché in realtà non parliamo del peso della nave, ma del volume della nave, perché le tonnellate di stato non sono un'unità di peso, ma un'unità di volume. La nave più grande al mondo attualmente, costruita nei cantieri finlandesi, ha raggiunto la grandezza di 220.000 tonnellate di stazza. Questa è la più grande in assoluto, le leggermente più piccole si aggirano attorno alle 150.000 tonnellate per vari armatori, tra cui la Cunard, la famosa Queen Mary, oppure sempre per la Royal Caribbean Cruise Line, le classe Voyager e Freedom. Noi in Italia abbiamo costruito la più grande attualmente consegnata, la nave di classe Carnival Dream di quasi 130.000, 128.000 tonnellate, e abbiamo però in ordine navi anche più grandi che supereranno le 140.000 tonnellate. Parlare di tonnellate dice poco per uno che non conosce la nave. Parlare dell'Oasis o del Sequel da 220.000 tonnellate, parliamo di più di 2.700 cabine, per cui più di 6.000 passeggeri a bordo. Calcolando anche l'equipaggio si arriva a 8.000 persone a bordo, quindi sono veramente dei mostri, dei giganti del mare. Senta, nel mondo noi italiani, che siamo sempre stati, e immagino lo siamo ancora, grandi produttori di questi giganti, come ci piazziamo? Ci piazziamo molto bene, eravamo leader del mercato fino a poco tempo fa con più del 40%, adesso siamo stati raggiunti, manteniamo circa il 40% di mercato per queste navi da crociera, siamo stati raggiunti dal cantiere tedesco, che con la recente acquisizione sono arrivati anche loro al 41%, per cui direi che noi assieme ai tedeschi di Meyer Werft ci quasi spartiamo il mercato delle navi da crociera per più dell'80%. Poi ci sono i cantieri francesi e finlandesi, nonché anche i cantieri di Marioca. Questo discorso può essere esteso a tutte le navi o ad esempio sui mercantili petrolieri non siamo così forti? Purtroppo no, magari avessimo il 40% del mercato mondiale. No, la fa da padrone, Far East sicuramente, e tra questi i paesi emergenti come Cina, Vietnam, Corea, Giappone, che hanno praticamente direi quasi il monopolio della costruzione di navi di certe tipologie, quali container, bulk carrier, cisterne e quant'altro. Quelle della crociera è solo una nicchia di mercato, tenga presente che rispetto a tutto il naviglio mondiale, navi da crociera saranno il 2%, il 3%, cose del genere. Senta, a livello tecnologico stiamo parlando di cose complicate da costruire, insomma, al di là delle dimensioni, che quelle sicuramente sono un fattore che complica le cose. Quando parliamo ad esempio di aerei, parliamo di aziende che hanno anche una valenza strategica per un paese. In questo caso come cambiano le cose? Le cose cambiano in maniera abbastanza sensibile, perché c'è da vedere vari aspetti. La nave è un oggetto complicato, ha una tecnologia di molteplice, perché pensa che a bordo c'è di tutto, dall'impiantistica elettronica, quella impiantistica normale, l'aria condizionata, le propulsioni, le luci, i sistemi di sicurezza e quant'altro, è molto complicato. Nell'industria aeronautica o industria che sono automobilistica si parla di serie, cioè di studi che vengono fatti per realizzare poi un certo numero di esemplari. Qui da noi nell'industria cantieristica e soprattutto nell'industria che produce navi da crociera, quando facciamo due navi più o meno uguali, cioè della stessa classe, la chiamiamo già una serie, ma in realtà sono praticamente oggetti fatti su misura, come se lei vada da un sarto a farsi fare un vestito, per cui è difficile parlare all'interno di questo, però ovviamente cerchiamo di dare un prodotto industriale all'avanguardia, e quindi tutto il progresso che vede avanzare nel mondo normale civile viene imbarcato a bordo, come le dicevo, dal software all'elettronica all'arredo, ai materiali innovativi e quant'altro. E così abbiamo veramente concluso questa puntata di 2024, che tra poco troverete anche all'interno della selezione dei podcast di Radio 24, quindi andate su www.radio24.it, cliccate sulla sezione podcast e lì trovate tutti i file delle ultime puntate di 2024, oppure se avete un software ce ne sono tanti gratuiti per la gestione del podcast. In quel modo potete scaricare automaticamente settimana dopo settimana, subito dopo la trasmissione o comunque appena è disponibile, il file di 2024. Io sono Enrico Paglierini, vi ringrazio per l'ascolto. Abbiamo parlato oggi, tra le altre cose, tra le tante cose, di congestione delle reti. Pensate ad esempio a quello che è successo in Giappone. Tutti si sono messi a telefonare subito dopo il terremoto e le reti di telefonia mobile sono andate in tilt, mentre invece le reti fisse, internet fisso, è rimasto disponibile a tutti. Ringrazio Giorgio De Luca e Viola Bottoni in redazione. Paolo Corleoni si è occupato della parte tecnica. È tutto per questa puntata. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre sabato 15:30. 2024.